Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Un saluto da Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Filippo Reggi in regia. Dunque, questa è stata infine la settimana del piano ribattezzato con l'occasione appunto della sua presentazione Next Generation Europe. Allora, cominciamo, mi sembra inevitabile, dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L'abbiamo detto, lei ha presentato il suo progetto di presidente dell'organo esecutivo dell'Unione Europea. Ormai a novembre l'idea era quello del digitale, della svolta verde, eccetera eccetera. Poi è arrivata la pandemia, le cose sono cambiate, ma sentiremo come in questo progetto in realtà tutta una parte di quel primo blocco sia stata recuperata. Allora sentiamo Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, e Paolo Gentiloni, commissario all'economia. La Commissione presenta oggi un nuovo strumento per la ripresa, chiamato Next Generation EU, dal valore di 750 miliardi di euro, che andrà ad aggiungersi al nostro nuovo bilancio a lungo termine di 1,1 trilioni. Next Generation EU, insieme al quadro finanziario pluriennale, porterà ad una somma di 1,85 trilioni. Questo strumento si affianca alle tre reti di protezione da 540 miliardi già concordate con Parlamento e Consiglio. Tutto questo porterà il nostro sforzo per la ripresa ad un totale di 2,4 trilioni di euro. Credo sia una svolta da parte della Commissione europea e mi auguro di tutte le istituzioni europee, perché una crisi senza precedenti si risponde in modo rapido e con uno strumento economicamente molto molto rilevante. E questo credo sia una dimostrazione di solidarietà e anche di comune interesse, non è solo una solidarietà umanitaria, è l'idea che un intervento comune di 750 miliardi può contribuire a rilanciare l'insieme dell'economia europea, e credo che questo sia, mi auguro, un fatto storico anche per l'avvenire dell'Unione. Queste dunque due voci importanti, due voci protagoniste della giornata di mercoledì e evidentemente di quello che seguirà. Prima di sentirne altre, il punto da Bruxelles del corrispondente del Sole 24 Ore, Beda Romano, subito dopo appunto l'annuncio di mercoledì. Sentiamo. È un bilancio europeo senza precedenti, quello proposto oggi ai 27 dalla Commissione europea. È senza precedenti per l'ammontare, quasi 2.000 miliardi di euro, e per il modo in cui sarà finanziato, quasi per metà da debito emesso dall'esecutivo comunitario. La pandemia influenzale è riuscita a scuotere i Paesi membri e a indurli a un importante passo avanti nell'integrazione europea. La Commissione emetterà debito in modo sostanzioso per la prima volta in 60 anni di storia, guadagnando nei fatti indipendenza politica rispetto ai Paesi membri. Il progetto è innovativo e ha certamente una valenza storica. La proposta passa ora ai governi nazionali, che dovranno dare il loro benestare. Cambiamenti potrebbero esserci sulle chiavi di ripartizione del denaro, per esempio, ma tutti i paesi appaiono d'accordo sulla necessità di emissioni comuni, che nei fatti rappresentano una mutualizzazione delle risorse impensabile solo alcune settimane fa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Governi nazionali che, come sempre accade nell'architettura dell'Unione, dovranno esprimere il proprio parere all'unanimità, perché questo viene richiesto dalle regole, e che vede evidentemente l'opposizione esplicita di paesi come l'Austria, la Svezia, il Lussemburgo, l'Olanda, opposizione a vari gradi per ragioni diverse che poi cercheremo di approfondire. Opposizione che appare, come dire, esplicita ma non così virulenta come in realtà si poteva pensare ancora prima di questo annuncio. Allora, Anna Marino ci aiuta a fare un po' il quadro di quello che è stato l'immediato dopo annuncio del piano della Commissione. Reazioni contrastanti nell'Europa 27, tra i primi a scrivere sui social il premier italiano Conte. Ottimo segnale da Bruxelles, dice, va proprio nella direzione indicata dall'Italia. 500 miliardi a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse. Su Twitter gli fa eco il premier spagnolo Pedro Sanchez. Punto di partenza per i negoziati. Dovremo presto raggiungere un accordo per avere accesso alle risorse. Nella proposta della Commissione, quella della Spagna è la seconda quota più alta dopo quella dell'Italia. Colpo di freno invece sull'intervento complessivo per l'annuncio dell'Olanda di trattative lunghe per l'approvazione. L'eurodeputato olandese Jan Epping afferma: siamo quasi a un colpo di Stato, sulla soglia di un trasferimento di competenze senza precedenti. Il governo dell'Austria lo approva invece come punto di partenza, e anche il presidente francese Macron, che auspica rapidità e ricorda la spinta dell'accordo franco-tedesco. Tenta una mediazione la cancelliera tedesca Angela Merkel. È chiaro che le trattative saranno difficili e non saranno chiuse già al prossimo Consiglio europeo di giugno, ammette, ma rilancia il nostro obiettivo che in autunno si riesca a trovare abbastanza tempo per le consultazioni nel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali, in modo che possa entrare in vigore, auspica Merkel, entro il 1 gennaio 2021. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Avete sentito, dunque, l'olandese Jan Epping parla, evoca addirittura un colpo di Stato. Ora, c'è del vero in questa affermazione, nel senso che c'è una spinta, di sicuro non è colpo di Stato, ma c'è una spinta rispetto al passato, rispetto appunto a quelle regole comuni che vengono invocate quando si è sulla posizione difensiva, vengono osteggiate quando ci si lamenta dell'incapacità decisionale dell'Unione Europea. In questo caso l'ipotesi stessa di costituire, di creare del denaro proprio, del denaro vero, importante, che la Commissione Europea dovrà poi investire su un settore piuttosto che su un altro, beh, è effettivamente una svolta. Rimaniamo sulle opposizioni, o meglio, sulle opposizioni nazionali, perché, lo ripetiamo, il Consiglio ragiona un voto per uno Stato, il voto deve essere unanime, quindi in questo momento conta soprattutto chi ha la capacità, chi è la guida del governo nazionale e che si presume abbia la capacità di portare a casa un voto favorevole. Allora, abbiamo chiesto ad Andreas Lillehand, che è un collega svedese, collaboratore appunto della rete Euronews Plus News Agency, di spiegarci la posizione svedese. Sentiamo che appunto c'è anche in questo caso una prospettiva molto locale, molto specifica, legittima quanto specifica. Sentiamolo. La posizione svedese non è cambiata. Forse in altri paesi cosiddetti frugali sì, ma non in Svezia. Non si vogliono versare ulteriori somme nel budget europeo e c'è un'avversione a qualsiasi tipo di sussidio. Dovrebbero esserci soltanto prestiti. Il governo svedese vuole aiutare paesi come l'Italia e la Spagna e comprende che la Svezia è un piccolo paese molto dipendente dall'export e che quindi è importante mantenere un mercato unico che funzioni, ma è comunque contrario a sussidi a fondo perduto. Sweden is run by a minority government with passive support from two opposition parties. Bisogna però anche capire qual è la situazione politica in Svezia. Al potere c'è un governo di minoranza col supporto passivo di due partiti di opposizione e nessun partito vuole dare più soldi all'Unione Europea e nessuno vuole concedere altro che prestiti ai paesi nel bisogno. E ovviamente occorrerebbe l'approvazione del Parlamento per qualsiasi decisione a livello europeo. Per come la vedo io, è difficile che si riesca ad approvare la proposta di mercoledì della Commissione. Per la Svezia è necessario apportare delle modifiche. Ho parlato con un ufficiale delle condizioni per sussidi o prestiti e lui mi ha detto: non vogliamo versare 800 miliardi di euro in un buco nero in Italia. Occorre imporre delle riforme all'Italia in modo da essere certi che queste risorse provenienti dalla Svezia sortiscono un certo effetto. Ecco, non voglio essere troppo banale, ma dicendo, com'è che si dice, ogni mondo è paese, anche la Svezia ha la sensazione di dover versare tutto questo fiume di denaro per l'Italia e per l'Europa. È una prospettiva, ribadisco, legittima in un paese che vive di esportazioni, che ha una storia straordinaria, una cultura importantissima. Questa idea suona un po' stonata rispetto a un quadro d'insieme della forza economica europea, ma naturalmente sono punti di vista. Allora, per concludere con un punto di vista ufficiale, quello del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. So che non è un problema di una o due o tre settimane, perché qui stiamo parlando di una cosa storica, di un appuntamento storico. È talmente importante che tutti capiscono che una settimana o tre settimane di differenza non cambiano nulla. Però noi voteremo la proposta del Consiglio e penso, come dicevo prima, che dal Consiglio non debba uscire una proposta minore nelle ambizioni di quella che oggi è stata presentata in Parlamento. Questa dunque la posizione del Presidente del Parlamento Europeo, sul quale chiudiamo questo blocco. Insomma, si è aperto il tempo della trattativa, ci aggiorneremo su questa nei tutti i giorni di fatto, ma in vista dei voti di giugno. Adesso aggiornamenti per chi è in viaggio, poi cambiamo decisamente tema perché torniamo a parlare di spazio, di esplorazione, tra pochissimo. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... Che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Gli anni 90, che anni, che ritmo. Una Vespa domenica è già, e una Vespa ci porterà fuori città. Quante cose sono cambiate dagli anni 90. Ad esempio, digitalizzare i processi aziendali oggi è più facile con un software gestionale che funziona sempre e ovunque. In ufficio, in viaggio, in smart working, in cloud. Con Fluentis hai tutte le funzionalità di un ERP evoluto, completo di CRM e business analytics, per analizzare i tempi e ridurre i costi della tua attività. Non ci credi se non vedi? Vai su fluentis.com, scarica l'app e inizia subito la tua prova gratuita. Fluentis, la F che funziona. Europa, Europa. 3, 2, 1... Lift off of the Falcon 9. Cari ascoltatori, ben ritrovati in questa seconda parte del nostro appuntamento. Abbiamo dedicato ovviamente tutto lo spazio che riteniamo necessario e torneremo a parlare del grande progetto europeo di rilancio dell'economia, della società dopo la grande crisi, ma vogliamo anche, come dire, alzare letteralmente lo sguardo. D'altra parte, l'avete sentito, una delle caratteristiche del piano von der Leyen è quello di investire sulla ricerca, sull'innovazione, su un'Europa che nel suo futuro è sempre più e sarà sempre più orientato verso le tecnologie. Allora ci sembra perfetto adesso parlare in una chiave spaziale. Abbiamo con noi Bernardo Patti, che è responsabile per il programma di esplorazione all'Agenzia Spaziale Europea. Dunque, innanzitutto grazie di essere con noi. Grazie di avermi coinvolto. Eccoci, allora ripartiamo inevitabilmente dalla cronaca, ingegner Patti, che ci racconta giovedì scorso. Abbiamo guardato, abbiamo atteso questo straordinario momento del ritorno americano nello spazio, poi le nuvole che hanno di fatto bloccato il lancio. Oggi una seconda finestra di lancio. Perché questo lancio è così importante? Perché deve interessare un po' tutti quanti e non solo gli americani? Diciamo che questo lancio è molto importante perché, diciamo, l'umanità tutta intera sta acquisendo ulteriori modi di raggiungere lo spazio per il trasporto degli astronauti. Avevamo un monopolio della Soyuz, adesso c'è una diversificazione, ci sarà SpaceX, ben presto ci sarà Boeing, e penso questo sia uno stimolo per volgarizzare l'accesso nello spazio anche per gli astronauti, è un'ispirazione per altre ditte e altri paesi e altre istituzioni. Ecco, questa missione punta, come sappiamo, alla Stazione Spaziale Internazionale, quindi un ritorno in un luogo che ormai frequentiamo da una quindicina d'anni. Oltre che cosa c'è? Si parla della Luna, si parla di Marte, ma realisticamente cosa c'è oltre questa missione? Realisticamente c'è immediatamente la Luna. Noi vediamo un accesso alla Luna nella seconda metà degli anni 20, visite stabili durante gli anni 30 che ci permetteranno di acquisire un'esperienza sufficiente per poi pensare ad andare su Marte nella decade degli anni 40. Andare su Marte è chiaramente uno scoglio molto più grosso che non sulla Luna, quindi adesso bisogna imparare a andare in modo sostenibile sulla Luna, come abbiamo fatto per l'orbita bassa. Non si farà in qualche anno, si farà in un decennio, e quando le cose si saranno stabilizzate, che a quel punto ci sarà una routine o una cosiddetta routine, perché non è mai una routine andare nello spazio, potremo pensare ad andare su Marte. In che maniera è coinvolta l'Europa? Perché questa è una super missione Stelle e Strisce, due astronauti con una grande esperienza, lo ricordiamo, il comandante peraltro è quello che ha chiuso la porta dello shuttle 9 anni fa. 9 anni fa ha chiuso la porta dello shuttle, ora apre una nuova spedizione. L'Europa in questo dove sta? L'Europa, chiaramente lo sappiamo, il budget europeo rispetto al budget statunitense è molto diverso, parliamo di più di un fattore 10. Comunque l'Europa contribuisce con qualità. Ricordiamoci che stiamo costruendo insieme ai nostri amici americani il veicolo Orion. Noi forniamo il modulo di servizio, che è il modulo di propulsione, che col volo di Orion, la missione sarà Artemis 1, comincerà l'era dei voli spaziali al di là dell'orbita bassa. Ricordiamoci che lo SpaceX si ferma soltanto all'ISS, invece Orion andrà al di là dell'orbita bassa, andrà in orbita lunare, quindi è un ritorno dopo Apollo, e siamo al centro di questo ritorno, perché chiaramente siamo noi che costruiamo il modulo di servizio. La tradizione, a proposito di moduli, in questo caso però sto pensando in moduli abitativi, la Stazione Spaziale Internazionale, forse non tutti sanno quanto di Europa e di industria europea c'è davvero in quella stazione orbitante. Totalmente vero, grazie per darmi l'opportunità adesso di elaborare in questo aspetto. Quindi abbiamo parlato prima del trasporto e quindi del veicolo SpaceX e di Orion. Adesso parliamo di infrastrutture abitative. La nostra industria europea, e in particolare quella italiana, ha costruito circa il 40% degli elementi pressurizzati dell'ISS. Questo chiaramente è un grandissimo successo tecnico-industriale che peraltro vogliamo espandere nell'esplorazione lunare. Come forse saprete, stiamo costruendo insieme alla NASA un avamposto attorno alla Luna che si chiama Gateway, che è una porta d'accesso alla superficie della Luna. In poche parole lo possiamo paragonare a un campo base. Il Lunar Gateway è sviluppato in cooperazione con la NASA, con la JAXA e con la Canadian Space Agency, e noi chiaramente forniamo il modulo, il Core Habitation Module, quindi il modulo di abitazione principale, e il modulo di refueling, il modulo che permette l'approvvigionamento di carburante durante la vita di questa stazione. Quindi siamo anche al centro dello sviluppo delle infrastrutture, avvantaggiandosi di tutti gli investimenti che abbiamo fatto sull'ISS. Diciamo che proiettare quello che abbiamo visto in Crew Dragon anche all'interno dell'ingegneria dei moduli fa pensare, insomma, che vedremo tante novità nei prossimi anni. Però vorrei farle un'ultima domanda che riguarda gli astronauti. Insomma, Luca Parmitano poco tempo fa ha avuto l'onore e l'orgoglio anche di essere il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale. Si parla di un nuovo lancio per Samantha Cristoforetti. Insomma, che succede nell'ambito degli astronauti che, come disse Samantha Cristoforetti, astronauti europei di nazionalità italiana? Sì, è così che ci piace pensare, perché chiaramente noi all'Agenzia Europea non esistono più astronauti italiani, tedeschi, francesi, ma esistono colleghi. Quindi sono tutti i nostri colleghi e li vogliamo fare volare. per quanto riguarda Luca e Samantha. Samantha ha il suo prossimo volo nel 2022, Luca ha appena compiuto un volo sulla stazione che è stato un grande successo. Peccato che sia tornato durante la crisi del coronavirus e che quindi di solito il post-flight tour che viene fatto chiaramente è rimandato. Il loro futuro è volare ancora sulla ISS, volare ancora sul Gateway. L'Europa ha acquisito 3 opportunità di volo sul Gateway e ci sarà posto per tutti, e quindi gli astronauti europei voleranno sul Gateway. Chiaramente Luca e Samantha avranno le loro opportunità. Oltretutto, ben presto ci accingiamo a avere altra selezione di astronauti che comincerà nel 2021, quindi nel 2021 una nuova selezione di astronauti sarà operata e quindi potremo avere nuove leve che rappresenteranno l'Europa nello spazio. Un'ultima battuta telegrafica: quando un lanciatore europeo? È vero, ci manca un lancio europeo, ci manca, se vogliamo, un'infrastruttura europea che ci permette di trasformare e di trasportare astronauti nello spazio. La domanda è più una domanda politica che non tecnica. Abbiamo la capacità di farlo, senz'altro. Chiaramente è un investimento importante e sta ai nostri decision maker di decidere quanto il valore politico, diciamo, giustifichi l'investimento finanziario. Chissà che questo grande progetto di rilancio dell'Europa non ci offra delle possibilità in questo senso, che dice, magari? Ma io non voglio fare il falso ottimista. Ricordiamoci che nel 2008, quando ci fu la crisi Lehman Brothers, che andò fino al 2012 in termini di crisi economica e finanziaria, il budget dell'ESA aumentò. Quindi adesso, chiaramente, essendo superstizioso, non voglio dire troppo forte, però comunque il fattore moltiplicativo dell'investimento in ESA è tale che comunque investire ha un fattore moltiplicativo di 3, quindi implica una grandissima impulso alla crescita economica. Quindi noi siamo qui con le nostre capacità, con i nostri prodotti, con la nostra industria e con i nostri ingegneri. E siamo sicuri che riusciremo a coinvolgere e a convincere i nostri decision maker che siamo un buon investimento. Un buon investimento. Grazie davvero, ingegner Patti, grazie di essere stato con noi. Buon lavoro, naturalmente ci aggiorniamo per prossime missioni. Molto gentile, alla prossima. Bene, con questo si conclude il nostro appuntamento. Come sapete è un tema che ci è molto caro, quello dell'esplorazione spaziale, perché è appassionante, perché è davvero pieno di ricadute, perché significa ricerca, perché significa tutto quel meglio delle capacità europee, non solo, che in fondo sono proprio quelle che nel grande progetto von der Leyen vengono richiamate. Staremo a vedere. Per adesso si chiude qui questa puntata. Grazie a tutti voi, ci risentiamo la prossima settimana.